Zolt. Fulminati in azienda. Pronto? Pronto, grande. Ciao Squalo, oh, come va? Carissimo sul pezzo, come stai? Allora, vieni o no a mangiarti sta porchetta sui colli? Hai ragione, Squalo, è che sono un po' preso in questo periodo, però ti ho chiamato perché volevo sapere come vanno le nostre relazioni con i clienti. Oh, i clienti bene, hanno recuperato un po' sulle vendite, pare che il peggio è passato, i clienti sono un tantino più ottimisti, se la fanno meno sotto, diciamo, fa qualche piccolo ordine. Grande, Squalo, lo sapevo che mi portavi buone notizie, dai che si riparte, dai. Sì, si riparte, solo che c'è un problema grave, Marco. Ma come un problema grave, Squalo? Oh, sul pezzo mio qua i clienti comprano qualcosina in più, ma continuano a pagarmi in ritardo. Ma come in ritardo? La crisi è finita, c'è la ripresina, la gente continua a pagare in ritardo. Il problema è che noi commerciali siamo sempre amici dei clienti, andiamo a mangiare insieme la porchetta, non è che possiamo essere noi a fargli solleciti. Ah no, e perché, scusa? È perché non è bello a sul pezzo, che famo? Tra un bicchiere e l'altro se mettiamo a parlare dei pagamenti. Che faccio? Da un lato mo coccolo e dall'altro gli sfilo il portafoglio. Signori, lo Squalo ha ragione. Non possono essere i venditori a tampinare i clienti che non pagano. Qui deve intervenire il legale. Dai, scrivete una lettera. No, ma guardi che noi del legale non ce ne facciamo sfuggire una, sa? Mandiamo circa 600 lettere al giorno di solleciti. Il problema è che non potete mandare a stessa lettera minatoria sia a quelli che sono in ritardo dei pagamenti dei due giorni che a quelli che sono in ritardo dei 18 mesi. Sì, ma noi agiamo in base all'articolo 856,2 che prevede che anche dopo un giorno di ritardo nel pagamento... Infatti tutte le volte che si è mosso l'ufficio legale per chiedere al cliente un pagamento avevamo perso un cliente. Non ci hanno pagato lo stesso e per di più avevamo dovuto pagare anche gli avvocati. Ma cos'è? Questo è uno sterminio. Ma chi siete voi dell'ufficio legale? Attila il flagello di Dio? Cuccipane, cuccipisci, sto malocchio, Maga, buongiorno, mi spari il buongiorno. Maga, buongiorno, carissima, senta, buongiorno. Noi abbiamo un problemino con i nostri clienti. Che fa? Non vi pagano manca a voi, vero? Ma come fa a saperlo? Maga, sono. E poi tutti abbiamo problemi di liquidità. A costo di vendere tutti siamo disposti a dilazione capescio e poi c'è sempre qualche cliente che ti fotte e non ti paga. Ecco, appunto, Maga, ma allora che cosa dobbiamo fare? Volevamo trovare un ottimo responsabile del recupero crediti che chiami i clienti. Eh sì, che si mette a tampinarli fino a quando non sganciano. Però abbiamo fatto 350 colloqui. Lei chi si consiglia di assumere? Ma sei mia, ma che pensate di dare l'incarico a uno di dentro, a uno interno? E perché? Cosa c'è di strano? Ma no, perché uno così è sprovveduto. Non è che può sopravvivere alle iastime dei clienti. Ma iastime? Scusi, a che cosa, Maga? Allora, i clienti morosi, a quelli del recupero crediti, ci augurano le peggio cose. Fanno ricorso a riti voodoo pericolosissime. Ecco, ma ci manca anche il malocchio dei clienti. Senta Maga, ma allora, scusi, cosa ci consiglia di fare lei? Allora, voi vi dovete rivolgere a professionisti di recupero credito, ma di fuori, di una società di fuori, esterna, che loro sì che sanno come difendersi da malocchio. Ho capito, Maga, ma e per i prossimi pagamenti? Vabbè, per i prossimi facciamo così. Quando mandate l'avviso di pagamento, fate passare la busta sotto questo ferro di cavallo. La sciofinate bene col dito indice il mignolo a mo' di corna, così il pagamento vi ritorna. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.